Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Proteggiamo la salute delle nostre ossa. È il messaggio della Giornata Mondiale dell'Osteoporosi che si celebra oggi. Non perdiamo tempo, perché la prevenzione inizia presto. In linea con noi il professor Stefano Lello del Dipartimento Tutela Salute Donne e Bambino della Fondazione Policlinico Gemelli di Roma. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Professore, partiamo dalla prevenzione. Chi ha tempo non aspetti tempo. Sì, la prevenzione dell'osteoporosi inizia, possiamo dire, fin dall'adolescenza, perché è importante far costruire delle ossa forti. Ricordo che la costruzione delle ossa avviene fino all'età di 25-30 anni e quindi è importante valutare gli aspetti nutrizionali, gli aspetti ormonali nelle ragazze, i periodi di amenorrea. Quindi quando manca il ciclo mestruale si abbassano gli estrogeni, valutare per esempio anche la carenza di vitamina D è assolutamente fondamentale. E quindi in quel periodo si previene quella che poi sarà la possibile comparsa di un'osteoporosi al momento della menopausa. Professor Lello, la MOC è l'esame che permette di valutare la densità ossea, ma c'è un altro indicatore importante, il rischio di frattura. Come lo si può calcolare? Sì, dunque la MOC ci dice quanto osso abbiamo, viene fatta a livello della colonna lombare e del femore, ma noi per valutare il rischio di frattura abbiamo dei vari strumenti, tra cui quello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che si chiama FRAX, che è facilmente disponibile online, che mette insieme al valore della MOC a livello del collo femorale alcuni parametri che riguardano la persona, che sono dei fattori di rischio, tipo il sesso, il peso, l'altezza, una frattura nel passato, se hanno avuto genitori con femore fratturato, se fuma, se ha l'artrite reumatoide, se prende cortisonici, se beve troppo alcol, se ha un'osteoporosi secondaria ad altre patologie. Mettendo insieme questi dati abbiamo una percentuale che ci dice il rischio di frattura per il femore, per le altre fratture da osteoporosi, a 10 anni addirittura. Quindi importante. Importante, trovate il link sulla pagina di Obiettivo Salute. Professor Lello, controlli e aderenza alla terapia sono fondamentali sempre, ma anche e soprattutto in questo periodo in cui il Covid rischia un po' di spegnere l'attenzione sulle malattie croniche. Assolutamente, è importantissimo continuare a fare i controlli, continuare a fare la densitometria, cioè la MOC, e ovviamente questo ci consente poi di valutare quelli che sono i trattamenti migliori nell'inizio della menopausa, per esempio la terapia ormonale sostitutiva quando non vi siano controindicazioni, o più avanti i bisfosfonati, altre terapie estremamente efficaci come il denosumab, insomma. E poi soprattutto mi raccomando sempre valutare i livelli di vitamina D e l'eventuale introito di calcio, che si preferisce ovviamente con la dieta, ma quando la dieta è insufficiente supplementare il calcio, ma i controlli vanno fatti anche adesso. Grazie professor Lello per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Grazie a voi, a presto, grazie. Buona giornata, come sempre vi aspetto sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute per le nostre video intervista. Oggi parliamo delle variazioni ormonali che possono influenzare anche la salute della nostra pelle. Vi aspetto, non mancate. Una buona giornata da Nicoletta. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.